Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Una persona che pensa soltanto in fare muri, sia dove sia, e non fare ponti, non è cristiano. Così ha detto il Papa di ritorno dal Messico sull'aereo. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, siamo abbastanza abituati, ogni volta che torna da un viaggio lungo sull'aereo con i giornalisti comincia a parlare, gli fanno domande, e questa era su, si riferiva in particolare a Donald Trump, uno dei candidati alla Casa Bianca, repubblicano, miliardario, che l'ha presa piuttosto male, bisogna dire, perché ha cominciato ad attaccare il Papa, a dire: si vergogni di queste parole, come si permette di mettere in dubbio la fede di una persona? Io faccio il presidente degli Stati Uniti, io faccio il presidente, insomma, che se naturalmente ancora non lo è, lui faccia il Papa, faccia il religioso. E di questo ci occuperemo in parte, perché diciamo questo ha innescato una serie appunto di reazioni che hanno fatto il giro del mondo. La notizia, da una frase che ha detto il Papa, è diventato un ping pong, diciamo, più da parte di Donald Trump che non da parte del Papa. E poi ci occuperemo invece dei ping pong nostrani, in particolare sull'unione civili, ma non solo. La politica è sempre in primo piano, anche per quanto riguarda per esempio le candidature a Roma. Pare che nessuno forse sia perfettamente convinto di voler giocare la propria partita a Roma. Vi ricordate nei giorni scorsi Paola Taverna del Movimento 5 Stelle, che aveva detto: mi sa che qui c'è un complotto per far vincere il Movimento 5 Stelle, perché a Roma c'è una situazione così complicata dal punto di vista soprattutto del bilancio, ma dell'amministrazione di tutta la città, che forse si ha un po' paura di prendere questo bubone in mano, diciamolo così, con tutto l'amore per Roma, insomma. Ma anche oggi c'è stata, per esempio, sulla candidatura di Bertolaso, che dovrebbe essere il candidato unico del centrodestra, in retromarcia, la retromarcia di Salvini con Berlusconi, che ha cercato poi telefonando di convincerlo, insomma. Però c'è un po' di tensione, nessuno vuole occuparsi di Roma, le candidature sono chiare, decise oppure no. E quello che vi posso sottoporre stasera, fra i vari argomenti, se volete, sulla pagina Facebook di Effetto Notte, al 349-238-6666 per i vostri messaggi, è per esempio l'ex leader della destra Fini ha detto: evidentemente il centrodestra è diventato una maionese impazzita, non è più in grado, come altri partiti, di cercare di elaborare, insomma, una classe dirigente. Anche secondo voi la situazione è questa, in particolare per il centrodestra, è confuso, una maionese impazzita, a proposito di queste indecisioni sulle candidature e i litigi? 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte. Sentirete la mia voce un po' più cavernosa, perché man mano sale la bronchite e anche la febbre in questi giorni, ma cercherò di arrivare a fine puntata. Fatelo anche voi, come sempre, fino alle 22. Intanto vi riassumo la giornata. Immigrazione, scontro tra Unione Europea e Austria sui richiedenti asilo. La Commissione dice: la quota è illegale, ma Vienna conferma: andiamo avanti. La corsa a Campidoglio, lite tra Salvini e Meloni su Bertolaso, e Berlusconi annulla il vertice, ma ribadisce che il candidato del centrodestra è l'ex capo della Protezione Civile. Unioni Civili, Bergoglio risponde ai giornalisti: il Papa non si mischia nella politica italiana. Il Movimento 5 Stelle sfida il PD a mettere la fiducia sul disegno di legge. L'allarme della Corte dei Conti, la spending review è un parziale insuccesso, troppi tagli ai servizi. L'attacco di Trump al Papa: come si permette di mettere in dubbio la mia fede? Parole vergognose. Economia, l'OCSE rivede a ribasso le stime per il PIL italiano per il 2016, prevedendo una crescita dell'1%. L'omicidio di Giulio Regeni, fonti della procura egiziana ai media dicono è stata la fratellanza musulmana, ucciso da agenti segreti per imbarazzare il governo di Al-Sisi. Visita storica: Obama sarà a Cuba il 21 e il 22 marzo, i repubblicani però lo accusano, è una dittatura. Partiamo quindi dal Consiglio europeo a Bruxelles, dove si è parlato principalmente dell'emergenza immigrazione. Sapete, infiniti consigli e vertici su questo tema, senza riuscire a trovare effettivamente per ora delle grandi soluzioni, e di Brexit, cioè il rischio che la Gran Bretagna possa uscire dall'Unione Europea. Su quest'ultimo tema però ci sarebbe una bozza d'accordo. Sull'immigrazione invece c'è molta tensione tra l'Unione Europea e l'Austria, che ha stabilito un tetto massimo di richiedenti asilo sul proprio territorio e anche di transitanti sul proprio territorio. L'Unione Europea non è d'accordo, ma tra poco andremo più nel dettaglio con un ospite. L'economia, per quella italiana, non ci sono purtroppo buone notizie. L'OCSE ha rivisto a ribasso le stime di crescita dell'Italia. L'OCSE ha tagliato le stime del PIL italiano dell'1% nel 2016, ovvero 0,4% punti percentuali di crescita in meno rispetto alle previsioni di febbraio. A sorpresa, l'organizzazione internazionale ha ridotto le stime anche della locomotiva tedesca, meno 0,5%, e degli Stati Uniti. In frenata la Cina e il Brasile è in recessione secca. La crescita globale è in calo, le borse sono volatili, i mercati emergenti vulnerabili ai movimenti valutari e al forte indebitamento in dollari del settore privato. In questo contesto, la politica monetaria da sola, come ha appena ricordato al Parlamento europeo il presidente della BCE Mario Draghi, da sola non basta più. Dopo ben 12.000 miliardi di dollari di iniezione di liquidità dal 2008 da parte delle banche centrali, bisogna rilanciare gli investimenti pubblici e tagliare le tasse per far ripartire la crescita in modo sostenibile. Ora che anche Berlino frena, il problema diventerà finalmente europeo e il piano Juncker sui grandi investimenti transeuropei verrà finalmente tolto dalla naftalina. Vittorio D'Arold, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Come se non bastasse, la Corte dei Conti valuta come un parziale insuccesso la spending review, la revisione della spesa pubblica fin qui effettuata dal governo Renzi. Capiremo in che senso e anche quali possibili conseguenze può aver portato questo parziale fallimento. Tra poco qui effetto note. Adesso siamo al ritorno di Papa Francesco dal Messico. Vi dicevo che Francesco sull'aereo papale si è espresso un po' a tutto campo, dalle unioni civili alla contraccezione, passando per il candidato repubblicano Trump. Io non so come stanno le cose nel Parlamento italiano, il Papa non si immischia nella politica italiana. Bergoglio risponde così ai giornalisti che gli chiedono un parere sulle unioni civili durante il volo di ritorno dal Messico. Di fronte a chi sull'argomento insiste, Francesco spiega che a suo parere il parlamentare cattolico deve votare secondo la sua coscienza ben formata. Un'ora di conferenza stampa sull'aereo che tocca molti temi sensibili, tra questi l'aborto, in particolare legato all'emergenza Zika. È un male assoluto, ribadisce il Papa, un crimine. Per affrontare il virus meglio il vaccino, dice, aprendo anche ai contraccettivi. Evitare la gravidanza, afferma Bergoglio, non è un male assoluto. Quanto all'amicizia di Giovanni Paolo II con una donna di cui la stampa molto si è occupata, il pontefice dichiara: un uomo che non riesce ad avere un buon rapporto di amicizia con una donna è un uomo al quale manca qualcosa. C'è spazio anche per un botta e risposta a distanza con Donald Trump, che aveva definito il Papa un uomo che fa politica, una pedina. Voler costruire muri e non fare ponti non è cristiano, dice il Papa. C'è tempo sull'aereo anche per chiedere a Francesco qual è il suo sogno. Andare in Cina, risponde il Papa. Questo, dice, mi piacerebbe tanto. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi una visita storica, che è quella di Obama, il presidente americano, che sarà a Cuba il 21 e 22 marzo, la conferma dopo le indiscrezioni di questi giorni in un tweet. Nel suo viaggio a Cuba, ribadisce la Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti incontrerà il presidente cubano Raul Castro, la First Lady Michelle viaggerà con lui. Erano più di 80 anni che un presidente americano in carica non andava in visita a L'Avana. L'ultimo fu Calvin Coolidge nel 1928, pensate. Edoardo Sirignano ha intervistato Loris Zanatta, professore di scienze politiche e tra i maggiori esperti di politica internazionale. Fino ad ora Cuba non ha risposto con misure concrete alle avance degli Stati Uniti, e cioè c'è una leggera liberalizzazione dei mercati, ma la liberalizzazione politica non si vede. Suppongo che Obama conti con la sua visita anche di favorire una liberalizzazione politica, perché non c'è dubbio che per Cuba ricevere Obama può essere anche rischioso, perché la popolazione o buona parte della popolazione cubana si aspetta dei cambiamenti che ancora non sono arrivati. La visita di Obama a Cuba avvia una nuova politica estera statunitense. Questa visita la vedo più in continuità che in rottura con il passato. Dopo Cuba, Obama andrà in Argentina. Quali sono i rapporti tra Stati Uniti e America del Sud? Quello è un viaggio molto importante, perché è un incoraggiamento alle nuove tendenze democratiche che si manifestano in America Latina. Siamo alla politica italiana. A questo punto c'è tensione, dicevo, nel PD. La senatrice Cirinnà, che dà il suo nome al disegno di legge sulle unioni civili, secondo un giornalista del Corriere avrebbe attaccato i suoi colleghi di partito, i cosiddetti Catodem, l'ala cattolica del partito, di aver intralciato il disegno di legge per volgari ripicche, per mancati premi nel rimpasto. Lei però smentisce, mentre intanto Alessandro Di Battista, del direttorio del Movimento 5 Stelle, sfida il PD a mettere la fiducia. Questo sarà uno dei temi di approfondimento stasera qui effetto notte, così come anche la retromarcia, vi dicevo, di Salvini rispetto al candidato del centrodestra a Roma, Guido Bertolaso, con Berlusconi che ha ribadito: Bertolaso è stato scelto da tutti e tre i leader, il nostro candidato ufficiale. C'è una notizia che riguarda l'omicidio di Regeni. Giulio Regeni sarebbe stato ucciso da agenti segreti sotto copertura, molto probabilmente appartenenti alle confraternite terroriste dei Fratelli Musulmani, per imbarazzare il governo egiziano. Questo lo scrive il quotidiano filo governativo egiziano. Ha il Home online, citando fonti vicine alla procura egiziana che indagano su questo caso. Le stesse fonti aggiungono che il procuratore egiziano e la sua controparte italiana stanno raccogliendo tutti gli elementi possibili per individuare l'autore del crimine, anche se diversi osservatori nei giorni scorsi, quando li ho intervistati con Effetto Notte, dicevano: vuoi vedere che tirano fuori da qualche parte i fratelli musulmani, che al di là di quello che sono, insomma, forse non avevano un grande interesse in questo momento a fare una cosa di questo tipo, però da quello che dicono fonti governative egiziane, la procura egiziana, per ora questa è la notizia. Torniamo in Italia con la cronaca, con la donna che era scomparsa nel Grossetano nel 2013. Ebbene, Antonino Bilella, il custode della villa Adua a Potassa di Gavorrano, in provincia di Grosseto, è stato condannato all'ergastolo con 2 mesi di isolamento diurno per la scomparsa di Francesca Benetti, l'ex insegnante di Cologno Monzese, della quale non ci sono più notizie dal 4 novembre 2013. Bilella, custode della villa della donna, era accusato di omicidio premeditato, soppressione di cadavere, stalking e violenza sessuale. La sentenza della Corte d'Assise è arrivata dopo 8 ore di consiglio. E parliamo anche di prostituzione. Si stima che siano tra 75.000 e 120.000 le donne vittime della prostituzione in Italia. Il 65% è in strada, il 37% è minorenne tra i 13 e i 17 anni, quindi più di un terzo, e tra i 13 e i 17 anni provengono da Nigeria il 36%, Romania il 22%, Albania il 10,5%, Bulgaria, Moldavia, le restanti da Ucraina e Cina e da altri paesi dell'est. 9 milioni sono i clienti, con un giro d'affari di 90 milioni di euro al mese. Questo particolarmente indirizzato a chi pensa che queste donne lo facciano ragazzine per scelta, che gli piace anche che sia, come si dice, il mestiere più antico del mondo. E lo rende noto, questi dati, la comunità di Papa Giovanni XXIII fondata da Don Oreste Benzi. E poi alleggeriamo anche con una notizia che riguarda il cinema, il gossip. Una coppia pubblica, famosa, e quindi ogni tanto ci sta anche di dire quello che succede, una coppia amata che anche che stava insieme anche contro i pregiudizi di tanti. Amore finito dopo 10 anni tra Valeria Golino e Riccardo Scamarcio, per Novella 2000 l'attrice cinquantenne, Scamarcio ha 36 anni, è innamorata di un altro uomo, un attore o regista francese molto famoso, e per questo evidentemente non viene fatto il nome. Per chiudere, il calcio, Europa League, Villarreal-Napoli 1-0 per Villarreal, Fiorentina-Tottenham è finita 1-1 in campo. Adesso ci sono Galatasaray e Lazio che procede la partita per il momento 0-0. La notizia extra è una storia particolare di una poiana che ruba cappelli ai passanti. Una poiana, un piccolo rapace, che ha rubato i cappelli ai passanti, mandandoli addirittura in 2 episodi al pronto soccorso. Il ladro, la ladra, niente di meno, appunto, questo rapace. Sono ben 15 casi registrati negli ultimi giorni ad Anghiari, che in provincia d'Arezzo. A dare l'allarme era stato 3 giorni fa un impiegato comunale che aveva raccontato l'accaduto sulla propria pagina Facebook, e poi a seguire il Corriere di Arezzo. Secondo quanto ricostruito dai testimoni, questa poiana sceglie le vittime a seconda di foggia e colore del cappello, quindi ai suoi gusti, attaccando all'improvviso. Le segnalazioni sono state almeno una quindicina, in qualche caso hanno coinvolto anche bambini. Il ripetersi di questi episodi ha indotto il sindaco di Anghiari, Riccardo Laferla, a intervenire. Dice: ci stiamo attivando come amministrazione comunale per capire come muoverci, contatteremo, dice, gli enti preposti per fare in modo che siano salvaguardati sia gli anghiaresi che il rapace. E su questa notizia vi aggiorno tra poco, vi aggiorniamo su chi sta per chi sta viaggiando, ma vi volevo aggiornare anche sui vostri messaggi a proposito della domanda che avevo fatto all'inizio, questa lite tra Salvini e Meloni su Bertolaso, candidato a Roma. Prima sembrava che fosse il candidato unitario del centrodestra, quindi Salvini, Berlusconi e Meloni. Invece oggi è stata una lite tra Salvini e Meloni. Salvini è tornato un passo indietro, dice: non ho ancora deciso. Berlusconi l'ha chiamato, annullato però il vertice che doveva esserci, ha ribadito che quello è il candidato. E Fini, ex leader della destra, ha detto oggi in un'intervista a Radio Cusano Campus: è una maionese impazzita ormai il centrodestra, incapace di scegliere la classe dirigente, così come altri partiti, ma in particolare il centrodestra. Secondo voi è in crisi di identità, si sta sgretolando, non riesce a trovare delle convergenze? 349-238-6666 per i vostri messaggi. Pagina Facebook di Effetto Notte, dove per esempio leggo Stefano che dice: più facile pensare che oggi pochi desiderino governare Roma, pozzo senza fondo che vorrebbe pure candidarsi come sede olimpica. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, una febbricitante Roberta Giordano con voi, ma ce la possiamo fare anche con i vostri messaggi che continuano a arrivare, sono un buon sostegno. Elena, a proposito di un centrodestra che secondo Fini è ormai una maionese impazzita che non sa esprimere una classe dirigente, a partire per esempio da quello che è successo a Roma per il momento con Salvini, che si è tirato indietro rispetto al candidato per il Campidoglio Bertolaso. Maurizia dice sì, si ostinano a non voler fare le primarie e le considerano roba da comunisti. E poi Elena, forse perché la classe dirigente attuale non sembra all'altezza della situazione. Continuate con i vostri messaggi sul centrodestra, sulla sua identità. 349-238-6666 per i messaggi. Poi pagina Facebook di Effettonote, che è sempre lì per voi. Mentre Galatasaray-Lazio è da facce scontente, avvilite, credo che sia 1-0. Sì, mi confermano 1-0 per il Galatasaray, naturalmente non per la Lazio. Tra poco cominciamo a entrare nel cuore degli argomenti. Intanto però, se avete acceso la radio in questo momento, anziché puntualmente alle 21, vi ricordo comunque le notizie più importanti. È scontro tra l'Europa e l'Austria sull'immigrazione. L'Austria ha posto un tetto sui migranti, l'Unione Europea dice è illegale e affronta oggi nel Consiglio Europeo anche il nodo Brexit, cioè il rischio che la Gran Bretagna esca dall'Unione Europea. Trump, candidato repubblicano alla Casa Bianca, senza freni sul Papa, che aveva detto non è un buon cristiano Trump, perché insomma pone muri nel senso di razzismo. Trump risponde vergognoso, dubita della mia fede. E Francesco si è espresso sul volo di ritorno dal Messico anche su Zika e ha detto anche Paolo VI ammise la contraccezione, perché sapete che OMS e ONU hanno dato l'indicazione di lasciare, di rendere più facile l'aborto per le donne che contraggano Zika, perché i bambini possono nascere con la microcefalite. Poi PD a nervi tesi sulle unioni civili, la Cirinnà nel mirino, stop intanto di Salvini su Bertolaso, salta il vertice del centrodestra. L'Ocse che frena sulla crescita italiana nel 2016, il PIL italiano non crescerà più dell'1%. E poi la Turchia che accusa i curdi per l'attentato di ieri e la morte di Isabella Noventa, forse un tragico gioco sessuale, rimangono in carcere i tre indagati. Vogliamo sentire al Consiglio europeo tra i vari passaggi, tra quello che ha detto Renzi. Oggi vi dicevo si sono occupati in particolare due temi principali, immigrazione da una parte e dall'altro la Brexit, che sembra che su questo dovrebbe esserci una bozza almeno di accordo. Sentiamo un primo passaggio di Renzi. Mi pare che si sia iniziato a capire che il tema non è soltanto dell'Italia, è un tema di tutti. Le risposte teoricamente ci sono, vediamo se nella pratica riusciremo finalmente ad arrivare a fare un altro passettino in avanti. È del tutto evidente che noi dobbiamo lavorare perché non vi siano emergenze nei Balcani, non sarà facile. Dopodiché l'Italia è sempre pronta a fare la propria parte, ma la vera domanda oggi è: l'Europa è pronta a fare la propria parte? Sia l'Europa a gestire non soltanto la riallocazione in tutti i paesi membri dei richiedenti asilo, ma sia anche l'Europa a gestire i rimpatri. Sergio Nava, dunque, come dice Renzi, noi siamo pronti, abbiamo fatto il nostro, l'Europa è pronta a fare la sua parte nell'immigrazione, per l'emergenza immigrazione. Oggi che cosa è stato detto, deciso, cose concrete o si continua di vertice in vertice? Sì, ciao Roberta, innanzitutto diciamo che un vecchio refrain, quello di Renzi, di dire l'Europa faccia la sua parte, è vero, e per troppi anni non l'ha fatta, e stiamo vedendo ora le conseguenze. Allora, questo vertice in realtà in teoria è abbastanza interlocutorio, nel senso che l'idea poi è di arrivare a due nuovi piani sostanzialmente, quello di giugno sulla guardia di frontiera europea, che si dovrebbe trovare un'intesa entro giugno, e poi anche la revisione di Dublino che la Commissione europea ha promesso per marzo a livello, diciamo, di idea, e poi per aprile dovrebbe proprio dare una bozza di nuovo regolamento di Dublino, perché quello attuale ha di fatto spostato l'intero peso degli arrivi e delle migrazioni sui paesi di approdo come l'Italia e la Grecia. E infatti su questo, scusami, visto che l'hai nominato, l'accordo di Dublino, sentiamo anche Renzi che ha parlato di un fallimento praticamente. Quindi se fai una strategia europea comune, è chiaro che le cose funzionano molto meglio. Quindi Dublino ha fallito, è sotto gli occhi di tutti. Che poi ci siano alcuni colleghi che per motivi comprensibili interni vogliono dire il contrario, questo sta nelle regole della politica, ma il dato di fatto è che oggi il Consiglio europeo e nei prossimi Consigli europei, perché questa storia della migrazione la vedrete anche al prossimo Consiglio europeo, la vedrete a quello di giugno, per anni si è fatto finta che non ci fosse, si è pensato di nascondere la polvere sotto il tappeto. Quindi il fallimento di Dublino a questo punto, che era l'accordo, lo rispieghi agli ascoltatori e alle ascoltatrici, Sergio? Beh, sì, in modo molto semplice, sì. Come dicevo prima, occorre che il profugo, comunque l'aspirante rifugiato, faccia domanda di asilo nel paese di approdo. Di fatto questo fa sì che penalizzava Italia e Grecia, penalizza, in particolare, perché è ancora attuale, esatto, penalizza i paesi dove si arriva, perché non si può, secondo Dublino, arrivare in Italia e poi andare a fare domanda di asilo in Germania, no? Poi nella pratica, insomma, molti ne sono sfuggiti alle reti, questo è stato un altro, diciamo, le reti di identificazione e registrazione, questo è stato un altro motivo di frizione attuale tra Italia e Commissione Europea, ma questa è un'altra storia. Tornando molto rapidamente a quello che mi chiedevi prima, oggi in realtà ci si doveva anche vedere con la Turchia, perché c'è sul piatto il piano di cooperazione tra Europa e Turchia, 3 miliardi già ormai stanziati, no? Dopo che si è superato anche il blocco dell'Italia, per far sì che la Turchia diminuisca il flusso di profughi, o comunque si faccia in modo che questo flusso di profughi sia controllato, per cui ci siano dei contingenti di profughi che dalla Turchia vengono in Europa in modo legale. Però poi l'attentato di ieri di Ankara ha fatto sì che il premier Davutoglu cancellasse la sua presenza, e così alla fine, oltre a fare il punto della situazione, cosa si sta facendo in questi minuti, perché i leader sono a cena, il tema è immigrazione, cioè, di fatto si è aperta l'ennesima polemica, era quella, insomma, citavi poc'anzi tu, con l'Austria, perché ormai si sta verificando un vero e proprio effetto domino, tutti stanno un po' facendo quello che vogliono, i paesi dell'est, il gruppo Visegrad, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia tifano, spingono per alzare sempre più muri, l'Austria tra i paesi, diciamo, più della vecchia Europa è quella che sta dando l'esempio a sua volta, perché ieri ha annunciato questo contingentamento, 80 domande d'asilo al giorno e non più di 3200 persone in transito, dice, quindi che poi vadano verso altri paesi al giorno. E questo ha aperto un fronte molto molto duro di polemica con la Commissione Europea, perché la Commissione Europea ha detto chiaramente che non è legale, e il cancelliere austriaco Faymann, arrivando a Bruxelles, ha detto: noi non torniamo indietro, questa è la nostra decisione, siamo un piccolo paese, non possiamo accettare e far entrare tutti i richiedenti asilo che arrivano in Europa, i flussi effettivamente sono molto molto molto grandi, e l'Austria è un paese di passaggio piccolo. L'altro tema, dicevamo, è quello della Brexit, che è stato affrontato, quindi la possibilità attraverso un referendum che la Gran Bretagna possa uscire dall'Unione Europea. Vogliamo sentire il primo ministro Cameron che cosa ha detto. Ecco, Cameron, che arrivando proprio a Bruxelles ha fatto una dichiarazione di 30 secondi, ha detto: abbiamo bisogno di un accordo credibile, abbastanza forte, per convincere i cittadini britannici a sostenere l'appartenenza all'Unione Europea. Allora, qui, Roberta, abbiamo il tema che farà da sfondo forse fino a domani all'alba, o c'è chi dice anche fino a sabato, perché il vero tema in realtà poi per la nostra sensibilità di italiani, diciamo, a livello di crisi, per noi è più importante quella migratoria, però la crisi vera su cui si sta dibattendo a Bruxelles è quella che riguarda il futuro della Gran Bretagna in Europa. Cameron ha posto un problema, e questo è quanto è trapelato dal Consiglio Europeo, ha posto un problema molto semplice, ha detto: ridefiniamo le relazioni tra Gran Bretagna ed Europa, più in generale ridefiniamo cos'è l'Europa, cioè chi vuole andare avanti e integrarsi sempre di più lo faccia, paesi come noi che hanno una visione dell'Europa, questo non l'ha detto in modo così esplicito ma lo traduco, hanno una visione dell'Europa più, tra virgolette, legata a precisi settori come l'economia, il mercato interno o la finanza, fanno degli accordi ad hoc e rimangono, diciamo, in un secondo cerchio. In sintesi il sunto è stato questo, il problema è che ci sono vari aspetti che intralciano un po' la questione, il discorso proprio legato a questa intesa che Cameron cerca di ottenere stasera o stanotte o domani o sabato a Bruxelles. Su questo sentirei anche l'opinione di Renzi, sentiamolo. Credo che sia ragionevole immaginare un accordo che consenta al primo ministro Cameron di affrontare, e noi tutti speriamo di vincere, il referendum di giugno, di quando sarà. Quindi c'è una ragionevole possibilità che si possa evitare l'uscita della Gran Bretagna, secondo Renzi? Beh, allora, diciamo, è anche difficile dire uscita o non uscita, nel senso che quello che cerca Cameron è un'intesa. Adesso magari poi andiamo anche brevemente a dire quali sono i settori. Un'intesa che gli permetta di dire: ho ridefinito i rapporti tra Londra e Bruxelles o tra Londra e l'Europa, e vado a giugno, quando, come dice Renzi, sarà, perché se non si trova subito l'intesa sarà tutto posticipato, a sottoporre questa intesa ai cittadini con un referendum, chiaramente tifando per il sì. Questa è la base. Non è detto che se non si trovi l'accordo in questo Consiglio europeo, magari poi non si rimandi al prossimo Consiglio europeo. È chiaro che prima lo si fa, meglio è. Il nodo fondamentale è quello, al momento, tra i vari nodi, quello relativo ai sussidi, che, di cui i cittadini europei godono in Gran Bretagna, come in tutti gli expat, diciamo, europei in altri paesi dell'Unione, che Cameron vuole sostanzialmente tagliare. Se si va appunto in Gran Bretagna e si lavora magari per un periodo, si ha diritto a dei sussidi, chiaramente, come un normale cittadino britannico. Lui vuole porre un freno totale di 13 anni. Una sospensione per 13 anni? No, diciamo... totale, nel senso che per 13 anni questi sussidi vengono limitati, però individualmente il limite è di 4 anni, cioè se io, una volta che entrassero ormai in vigore questi te ne vai a Londra? Me ne vado a Londra, per 4 anni ho delle limitazioni, o meglio non ne godo se rimango disoccupato, eccetera. Però nel mio caso singolo sono 4 anni, però il totale, la durata complessiva di questa 13 anni. Esatto, sarebbe 13 anni. È chiaro che soprattutto i paesi da cui c'è maggiore emigrazione verso la Gran Bretagna, come i paesi dell'est, anche l'Italia ne ha tanti italiani che stanno andando lì ormai, hanno dei dubbi. È vero che si applicherebbe questo freno, è stato definito un emergency brake, un freno d'emergenza, si applicherebbe al momento solo ai nuovi, a chi va adesso, chi è già in Gran Bretagna non dovrebbe quasi sicuramente risentirne. Però insomma, e poi ci sono altri punti che poi sono chiaramente la competitività, per esempio, oppure anche l'impatto delle decisioni dell'Eurozona sulla City di Londra. Il fatto che Cameron dice qualsiasi maggiore integrazione europea noi non dobbiamo farne parte, dobbiamo avere una eccezione, dobbiamo avere un'eccezione. Una bella autonomia, diciamo. Una maggiore autonomia, con una ridefinizione dei rapporti Londra e l'Europa, anche se questo probabilmente poi innescherà un effetto domino con altri paesi. Lo chiederanno, esatto. Cioè, questi spazi autonomia. Grazie Sergio Nala. Grazie a voi. Ciao Sergio, ciao. Questo è del Consiglio europeo, poi tra poco parleremo, dopo questa piccola pausa di ricreazione, parleremo dell'allarme della Corte dei Conti, che ha detto che la spending review in Italia in realtà è parzialmente fallita. Vi ricordate per esempio Cottarelli, il commissario, che forse è passato a chi l'ha visto, qualcuno ha chiesto che fine ha fatto, è andato in istituzioni internazionali, però sembrava che dovesse essere il Deus Ex Machina, poi non se n'è più parlato. Un altro, anche però economista, bocconiano eccetera, mi pare, sì, ha gettato la spugna. E questo però cosa comporta? Probabilmente dei tagli ai servizi. Quindi qualcosa di cui risentiamo noi cittadini. Però prima ci occuperemo dei temi politici di oggi, che non sono pochi. Ci sono tensioni sia all'interno del PD, tra PD e Movimento 5 Stelle, abbiamo parlato ampiamente anche ieri, e poi all'interno del centrodestra, sul quale appunto vi chiedo i vostri pareri. È in crisi di identità, il centrodestra non riesce a trovare un'unitarietà, una convergenza. Si è visto oggi per esempio sulla candidatura di Bertolaso a Roma, con Salvini che ha fatto una retromarcia, ha detto: io non compro a scatola chiusa. Evidentemente, non so, c'è una questione anche di ridistribuzione di candidature nazionali. Il centrodestra è in crisi, oppure come dice Fini è ormai una maionese impazzita. 349-238-6666 per i vostri messaggi, oppure comodamente sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Ne leggo qualcun altro. Franco, che dice: è vero, la destra è in crisi perché c'è già Renzi che fa politiche di destra e fa l'antieuropeista, lasciando spazio solo agli estremisti come Salvini, dice Franco. Mentre Caronte dice: immigrazione, Renzi si è travestito da Salvini, quello che dice lo va dicendo da tempo la Lega. E poi altri messaggi, ringrazio Beatrice per il suo messaggio. Sulla pagina Facebook c'è Maurizia, Alberto, che dice: il Papa non si mischia, ma se ci ha fatto invadere i musulmani a tutta forza, a proposito della questa polemica che ha fatto il giro del mondo tra il Papa e Donald Trump, candidato repubblicano. Ci sentiamo un momento. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Sempre Roberto Giordano con voi, se siete qui a ascoltare Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, e scrivete anche nelle direzioni giuste sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666. C'è questo ascoltatore, vediamo se ritrovo il suo messaggio, Giorgio da Torino, che mi dice: ecco, lei non vuole leggere i messaggi come i miei, vuole leggere solo quelli lisci, quindi si faccia da sola la trasmissione, quello non ce lo faccio. Però Giorgio, allora ti leggo questo messaggio, mi devi dire che vuol dire. Dice: ma perché deve vincere una fazione a sfavore di un'altra? Uno Stato moderno e democratico deve consentire a chi vuole di poter fare quello che ognuno sembra giusto fare. No, questa sarebbe anarchia. Comunque dice: chi è contrario non lo fa e basta. Se uno vuole prendere la patente, la prende o no? La può prendere o no? Beh, certo, la patente sì, altre cose diciamo no, anche rubare per esempio uno lo vuol fare, però non è consentito. Ecco, ho letto il tuo messaggio. Giorgio da Torino, poi mi dice che cosa significa. C'è Max che, no, questo è il messaggio sulle sigarette, insomma, poco pertinente. Bergoglio, dice un ascoltatore, poteva rispondere a Trump con un proverbio cinese: quando una tempesta sta per abbattersi sul tuo villaggio hai solo due modi per affrontarla, uno costruire un muro altissimo, l'altro costruire mulini a vento, quindi per sfruttarli, insomma. Poi sull'argomento che vi sottoponevo questa sera, fra i tanti, era questo appunto del centrodestra con questa nuova lite sul candidato di Roma, dopo aver fatto tanta fatica a tirare fuori Bertolaso, Salvini si è tirato indietro, ha detto: io non compro a scatola chiusa, ha litigato con Meloni, leader del Fratelli d'Italia, mentre Berlusconi ha rinviato quindi il vertice che ci doveva essere del centrodestra, però ha detto: il Bertolaso resta il candidato unico per noi. Anche per non rischiare di rimettere un po' tutto in gioco le carte a Roma. Quindi Fini ha detto in un'intervista a Radio Campus Cusano, ha detto: ma evidentemente ormai il centrodestra è una maionese impazzita, incapace di esprimere una classe dirigente. Siete d'accordo? 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte. Diceva per esempio un ascoltatore, vediamo se ritrovo il suo messaggio, eccolo qui: Fini era l'unico che sarebbe stato in grado di guidare una destra moderna, ma l'hanno demolito e questo è il risultato, un putpurri di nulla facenti. Vi ricordo però, prima di cominciare a approfondire questi temi politici, tra pochissimo quali sono le notizie più importanti della giornata. Scontro tra Unione Europea e Austria sui richiedenti asilo. La Commissione Europea dice la quota è illegale, ma Vienna conferma: andiamo avanti. La corsa al Campidoglio, lite tra Salvini e Meloni su Bertolaso, e Berlusconi annulla il vertice, ma ribadisce che il candidato del centrodestra è l'ex capo della Protezione Civile. Unioni Civili, Bergoglio risponde ai giornalisti: il Papa non si mischia nella politica italiana. Il Movimento 5 Stelle sfida il PD a mettere la fiducia sul disegno di legge. L'allarme della Corte dei Conti, la spending review è un parziale insuccesso, troppi tagli ai servizi. L'attacco di Trump al Papa: come si permette di mettere in dubbio la mia fede? Parole vergognose. Economia, l'OCSE rivede a ribasso le sue stime per il PIL italiano per il 2016, prevedendo una crescita dell'1%. L'omicidio di Giulio Regeni, fonti della procura egiziana ai media dicono è stata la fratellanza musulmana, ucciso da agenti segreti per imbarazzare il governo al-Sisi. Visita storica, quella di Obama, che sarà a Cuba il 21 e il 22 marzo, i repubblicani lo attaccano, dicono è una dittatura. E poi, per quanto riguarda l'Europa League, prosegue la partita Galatasaray-Lazio 1-1 per il momento. Allora, adesso, ecco, sono venute fuori i risultati delle comunarie del Movimento 5 Stelle, che attendevamo con ansia, dovevano arrivare un po' prima, però sono le 21.40, 21.39 esattamente. Hanno partecipato alle votazioni 3.272 iscritti certificati dal Movimento 5 Stelle, sto cercando di leggere spostando, residenti a Roma, che hanno espresso 14.636 preferenze, sapete che lo fanno online. Tra i primi 10, quelli che hanno dato la disponibilità alla candidatura a sindaco, sempre in ordine alfabetico, sono Annalisa Bernabei, Marcello De Vito, Paolo Ferrara, Virginia Raggi, Enrico Stefano o Stefano, Teresa Zotta. Questi sono quelli che sono emersi per ora dalle comunarie di Roma. E proprio sulla questione di Roma verte uno dei principali temi politici di oggi, cioè, vi dicevo più volte, questa lite all'interno del centrodestra tra Salvini e leader della Lega e Meloni, Giorgia Meloni, che è presidente di Fratelli d'Italia. sulla candidatura di Bertolaso, che era venuta fuori pochi giorni fa, dopo che insomma c'era un certo ritardo da parte del centrodestra nell'esprimere un candidato per Roma. È saltato questo vertice per questa lite. Berlusconi ha cercato un po' di rimediare chiamando Salvini al telefono, però ha ribadito che resta Bertolaso il candidato ufficiale del centrodestra. E poi c'è anche la questione delle unioni civili, che continua a dominare il dibattito politico italiano. Ieri ne abbiamo parlato ampiamente, c'era qui ospite del Movimento 5 Stelle Alberto Irola, che ha cercato di spiegare questa decisione del Movimento 5 Stelle di non votare il super canguro del PD, che avrebbe eliminato gran parte degli emendamenti e quindi reso più snello l'iter del disegno di legge. Irola, poi lo sentiamo, ha detto che è una questione di procedure democratiche. E poi appunto altro tema sono le comunali, vi ho appena letto quale è per il momento il risultato. Saluto a questo punto Barbara Fiammeri. Buonasera. Ciao Barbara, commentatrice politica del Sole 24 Ore. Allora, questi direi i temi, saltiamo un po' da uno all'altro, così facendo appunto dei commenti su ciascuno dei temi. Ti farei sentire, non so se hai seguito certamente, la questione della senatrice Cirinnà, Monica Cirinnà, che dà il nome al disegno di legge. Ieri sera molto arrabbiata con il Movimento 5 Stelle, così come tutto il PD, e oggi sembra che abbia detto, così riporta il Corriere della Sera, che in realtà è anche all'interno del PD, a parte questa spaccatura con i Cattodem, e la cattolica che dice sulla stepchild adoption ci deve essere una modifica, non siamo d'accordo, eccetera eccetera, ma lei dice in realtà sono cose più meschine, perché si aspettavano col rimpasto delle promozioni, delle poltrone che non ci sono state. Lei ha smentito e ha detto questo: ho messaggi nel mio cellulare, ho mail, ho accordi limpidi fatti in commissione, ragazzi, ho accordi limpidi fatti in commissione, dove noi abbiamo votato insieme quel testo, votato, scritto, concordato, fatto emendamenti, aggiustato. Siamo alla quarta versione di un testo complicato, difficile, sicuramente riduttivo rispetto ai diritti che noi potevamo comunque ampliare e concedere. Si è scelta la via parlamentare per fare accordi. Si è andata avanti su un accordo per 2 anni, dopodiché quell'accordo è saltato all'ultimo minuto su uno strumento regolamentare che poteva in questo caso essere accantonato semplicemente perché portava con sé un dato valoriale importante: salvare la legge dal Vietnam degli emendamenti pessimi dei colleghi che non vogliono la legge. Ecco, questo ha detto Cirinnà, ha fatto una breve cronistoria dell'iter del disegno di legge Cirinnà, dicendo c'erano gli accordi, quindi sottintendendo anche col Movimento 5 Stelle. E sentiamo ieri Alberto Irola, qui Effetto Notte, come ha spiegato un breve passaggio di quello che ha detto. Non è che abbiamo detto no, non votiamo la legge, a parte che questo emendamento peraltro non è ancora stato votato, quindi è venuta fuori la notizia come se noi avessimo detto di no a questa legge, e non è vero. Noi gli abbiamo chiesto, scusate, visto che questo emendamento l'avete usato per tenere in scacco chi faceva un ostruzionismo becero, che io peraltro ma anche non condivido magari personalmente, ma poi è tornato sui suoi passi, ritirate questo emendamento, votiamo questi 500 emendamenti che sono veramente una cosa fattibile in 2 giorni senza nessun problema, e rispettiamo il lavoro democratico del Parlamento. Ieri spiegavo da Irola che però c'erano molti esponenti del movimento gay davanti al Teatro Brancaccio, dove sta facendo il suo spettacolo Grillo, che protestavano per questa mossa del Movimento 5 Stelle e anche altre associazioni gay. Barbara Fiammeri, quindi tu come commenti sia queste indiscrezioni su quello che avrebbe detto la Cirinnà, che invece poi ha smentito che non ce l'ha con i Cattodem, sia la posizione e la mossa del Movimento 5 Stelle? Ma diciamo che mi sembra che la situazione sia abbastanza confusa, nel senso la Cirinnà ha smentito, però l'intervista c'è, così come ci sono degli sms che Airola ha mandato alla Cirinnà in cui le confermava che avrebbero votato il famoso emendamento Marcucci, il cosiddetto super canguro. Sì. Ma il motivo poi è anche molto chiaro, il motivo per cui volevano che si votasse questo super canguro, perché è vero che la Lega aveva detto, come ha detto anche il capogruppo Centinaio in aula, che avevano ritirato il 90% degli emendamenti e sarebbero rimasti solo 500 che appunto possono essere votati in breve tempo. Ma tutti sanno, e Airola per primo, che in quei 500 emendamenti che rimanevano c'erano altri canguri, opposti ovviamente a quello Marcucci, per far saltare la legge. Quindi è un po' un gioco delle parti questo, in cui nessuno mi sembra che possa rivendicare una limpidità di comportamento. È chiaro che Io credo che molto abbiano avuto peso per i 5 Stelle le decisioni che hanno preso Grillo e Casaleggio, anche dettate dai sondaggi che dicono, tutti i sondaggi, che sulla stepchild adoption l'opinione pubblica è in gran parte contraria. E insomma, quindi, ci sono tra poco delle importanti elezioni amministrative e hanno pensato di spostare, dici, in questa direzione, e hanno spostato i 5 Stelle, si sono spostati più al centro. Che era parlato, vi ricordate, nei giorni scorsi anche di colloqui avvenuti in Vaticano. Insomma, cioè, è chiaro che la partita è più complessa di quello che si vuole far credere. Però diciamo, da una parte e dall'altra, sulla pelle di chi aspetta da tanto tempo diritti civili. Senti Barbara Fiammeri, invece sulla questione Roma sembra davvero che quasi si abbia paura a prendere il timone in mano, forse. Giorni fa Paola Taverna diceva, il Movimento 5 Stelle aveva detto, mi sa che c'è un complotto perché vinca complotto il Movimento al contrario. 5 Stelle al contrario, per far vincere, non per far perdere, perché diceva questi presentano dei candidati poco credibili, quindi vinceremo noi, ma ci fanno vincere perché Roma c'ha questo buco di bilancio enorme, quindi sarà una patata bollente pazzesca. Sentiamo però Salvini oggi, che ha di nuovo mischiato un po' le carte nel centrodestra. Noi siamo soliti ascoltare i cittadini, quindi stiamo ascoltando e ascolteremo tantissimi cittadini romani e in base a quello esprimeremo il nostro giudizio finale. Quindi a pacchetto chiuso non compro nulla, anche perché, ripeto, me lo aspetto da Nichi Vendola la dichiarazione che i Rom sono una categoria vessata e penalizzata, non dal candidato del centrodestra. Evidentemente a Salvini non sono andate giù diverse cose, no Barbara Fiammeri? Sicuramente questa cosa dei Rom, che Bertolaso ha detto non bisogna fare steccati muri o mandarli via, sono persone vessate. E poi che ha detto che si considera un democristiano, che è amico di Giachetti, che è uno dei candidati alle primarie del PD a Roma, e non ha mai votato Berlusconi. Sì, diciamo che Bertolaso vuole presentarsi come un candidato super partes, no? Un po', mi sembra, sì. Non è un mistero anche qui che Salvini avrebbe preferito convergere su Alfio Marchini, l'altro candidato del che viene sostenuto da due partiti del centrodestra, i Fittiani e gli Alfaniani. Però Bertolaso certamente con queste dichiarazioni ci ha messo del suo. Poi c'è un problema che forse è anche più ampio, nel senso che Salvini ha spostato a partire dalla sua segreteria, insomma, ha spostato l'asse della Lega. Noi ci ricordiamo una Lega bossiana tutta incentrata sulla Padania, la secessione, l'indipendenza, tutti temi che ormai non sentiamo più nei comizi. Ambizioni nazionali, Salvini, in realtà, no? Le ambizioni di Salvini, come dici benissimo tu, sono di carattere nazionale, quindi Roma diventa un po' un banco di prova per la lista Noi con Salvini. Nel senso che vincere a Roma significa per Salvini poter domani rivendicare la sua candidatura alla premiership, no? Certo. E, ecco, tant'è che in queste ultime ore, mi sto accingendo a scriverlo, si profila l'ipotesi che Salvini possa non presentare a Roma la lista Noi con Salvini, nel senso che questo potrebbe avvenire proprio per evitare un'eventuale sconfitta, no? Nel senso che in un caos del genere si potrebbe tirare fuori. Però è chiaro che il centrodestra è in una situazione di totale, appunto, di un'implosione che già avevamo visto, insomma, nelle precedenti tornate elettorali, e che in questo caso su Roma, e non solo su Roma direi, perché ci sono anche altre realtà dove si vede che c'è una fortissima tensione all'interno dei tre partiti principali del centrodestra, non si riesce a trovare la famosa quadra che Bossi e Berlusconi davanti alla tavola imbandita di Arcore spesso erano riusciti a trovare, insomma. Quindi qualcuno dovrà vincere, dovrà prendersi questa patata bollente che è Roma, comunque. Roma è una patata bollente, anche i grillini, devo dire, cioè il complotto, se di complotto parliamo, come l'ha detto la Taverna, contribuiscono anche loro, perché non hanno messo un candidato forte al momento. Anzi, non hanno messo un candidato forte, e se pensiamo che 3.500 persone, come tu hai appena detto, hanno votato su 208 nomi

su sicurezza e terrorismo non sta facendo quello che dovrebbe fare. Oggi ci sono 28 paesi, l'uno contro l'altro armati. Tre aggettivi che la descrivono. Orgoglioso, deciso e non autosufficiente. Youzone, incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus. Youzone, incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus. Il contributo al contenimento della spesa non è più solo riconducibile ad effettivi interventi di razionalizzazione e di efficientamento di strutture e servizi, quanto piuttosto ad operazioni assai meno mirate di contrazione, se non di soppressione di prestazioni rese alla collettività. Questo è l'allarme del Presidente della Corte dei Conti Squittieri oggi, l'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei Conti, giudica negativamente le operazioni di revisione della spesa pubblica, la Spending Review, e dice Salvatore Chicco Padula, vice direttore del Sole 24 Ore, che anzi porta dei tagli ai servizi, è vero? Ciao Chicco. Buonasera. Ma sì, insomma, il Presidente della Corte dei Conti ha sottolineato che la revisione, il sistema di revisione della spesa è stato un parziale insuccesso, ma non perché la spesa non sia stata tagliata, come spesso, devo dire onestamente, siamo portati a dire e a pensare, ma perché diciamo, è stato fatto in un modo che ha privilegiato l'attenzione ai conti pubblici e non alla qualità e alla quantità dei servizi che vengono offerti ai cittadini e che da queste operazioni sono usciti un po' offuscati. Ora, devo dire che questa affermazione, che è un'affermazione pesante, non è poi stata molto bene circostanziata e spiegata dal presidente Raffaele Squittieri. E certamente, insomma, e poi anche alcuni esponenti del governo hanno risposto a Squittieri, in questi ultimi anni comunque sono stati tagliati circa 20-25 miliardi di spesa pubblica, per cui insomma qualcosa si è fatto. È evidente che più si va a tagliare e più diventa difficile trovare il posto giusto dove si taglia, no? Noi diciamo spesso che tagliare la spesa in modo indiscriminato è sbagliato, che bisogna invece avere la capacità di individuare quelle zone, quelle aree, quei segmenti in cui la spesa pubblica diventa uno spreco, e certo, forse questo denuncia proprio la Corte dei Conti. Non c'è stata, o non si vede tanto in questa fase, la capacità di individuare queste zone qui. Quindi si taglia, diciamo, in modo orizzontale, e a volte si tagliano anche i servizi. Purtroppo. Grazie Chicco, Salvatore Padula. Noi ci sentiamo alle 22.